Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi invito a un esame di coscienza, non perché siamo in tempo di Quaresima, ma perché curiosamente sono usciti alcuni titoli che esplorano proprio questo campo, quello dei vizi capitali, i 7 famosi vizi capitali. Il tema è antico, ma come vedremo può essere affrontato in maniera nuova e anche dando soddisfazione al lettore. Comincio con un libro di uno storico israeliano, Peccati capitali. Il libro è pubblicato da Melangolo, 164 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Armando Lomonaco. Kleinberg osserva come i 7 vizi capitali che sono stati codificati ormai da moltissimi secoli in realtà risentono molto del passare del tempo. Scrive infatti l'autore: azioni e passioni diventano peccati in un preciso contesto morale e culturale, il bene e il male vengono costantemente definiti e ridefiniti dalla società. Ma questo che vi propongo non è un libro di teologia, non è un libro di morale, è un interessante viaggio dell'uomo intorno a se stesso, da un duplice punto di vista, perché Kleinberg è ebreo e quindi ha ben presente la propria tradizione culturale e religiosa, ma conosce molto bene anche la tradizione cristiana e quindi intreccia la doppia lettura, per così dire, del comportamento dell'uomo. Perché leggere allora questo libro? Ma in fondo perché, come spiega lo stesso autore, riflettere su questi temi vuol dire sostanzialmente riflettere su noi stessi e sui nostri scheletri negli armadi. Ciascuno di noi ne ha, di più grandi, di più piccoli, ma insomma riflettere sui peccati capitali significa anche cogliere una dimensione in qualche modo luciferina che ciascuno di noi possiede, perché il peccato, dice l'autore, è comunque un'espressione di un ardente desiderio di libertà e di liberazione delle regole. Il Satana cristiano è un personaggio tragico, aggiunge Kleinberg. Ma sentiamo da lui come mai si è avventurato in questa esplorazione. Good morning, professor Kleinberg. Good morning. Professor Kleinberg, nel suo libro lei scrive che i 7 peccati capitali sono il campo minato delle passioni umane. Vale ancora oggi questa caratteristica? Questi 7 peccati lo sono ancora? I think so. I think even in a society that does not... Sì, io credo di sì. Anche se nella società non si ragiona molto in termini di peccato, nel senso cristiano del termine peccato, i vizi non sono una specifica trasgressione. Sono passioni umane e penso che queste passioni siano universali. Infatti, li si riscontra in ogni generazione e in ogni paese. Orgoglio, gelosia, invidia, avarizia, ira. Non c'è niente di particolarmente cristiano in questo. Sono passioni umane, se vogliamo chiamarle così. Passions, if you wish. Nella tradizione che lei ricorda, la superbia è considerato il peccato più grave. Ecco, di nuovo, al giorno d'oggi, è quello il peccato dal quale partire? Right. I think pride certainly is very important for all religious systems because it sees... Penso che l'orgoglio sia importante in ogni sistema religioso, perché costituisce la posizione originaria di ogni essere umano di fronte a Dio. Coloro che non sono umili sono colpevoli del peccato peggiore. Ma direi che oggi è l'avidità ad essere considerata come il peccato peggiore, perlomeno come ce lo presentano gli altri. Tuttavia, se guardiamo all'orgoglio in senso più astratto, l'orgoglio è un aspetto ancora importante della trasgressione umana, perché è quello che ci porta a ignorare gli altri e l'ambiente che ci circonda. Mette l'ego in primo piano e fa sembrare tutto il resto come secondario e meno importante. Se la mettiamo in questi termini, l'orgoglio è davvero il più importante dei peccati dell'uomo occidentale. Come ricordavo, lei parla di una tradizione cristiana leggendola anche alla luce della sua storia, che è una storia legata alla religione ebraica. Come è riuscito a cogliere questo doppio aspetto? Sì, senz'altro questo è vero. Quello che differenzia la religione ebraica da quella cristiana non è l'orgoglio in particolare, bensì l'idea generale di peccato. In quella cristiana il peccato è la principale minaccia per l'anima. Le passioni sono la peggior minaccia, specialmente quelle corporali. Questa è una distinzione che emerge in Paolo, nella sua lettera ai Romani e ai Galati, dove il corpo è visto come una minaccia. Penso che la visione ebraica sia più rilassata. l'uomo è visto come un essere fatto non solo di carne e anima, ma anche di buone e cattive inclinazioni, e queste devono convivere in qualche modo per trovare poi quell'equilibrio che permette all'uomo di non diventare né completamente angelico, né completamente diabolico, ma in sostanza di essere semplicemente un essere umano. Che vuol dire, da una parte, provare tutte le passioni che abbiamo senza esagerare, dall'altra, non cancellare completamente queste passioni, perché altrimenti quello che si ottiene non è un essere umano, ma qualcosa d'altro. E la religione ebraica è fatta per gli esseri umani. Lei ha citato l'avarizia e nel suo libro a un certo punto scrive che oggi il libero mercato è l'autentica religione, che l'avidità ormai si presenta come la suprema virtù. Ma questo è ancora vero dopo la grande crisi finanziaria ed economica che stiamo attraversando tutti? I think perhaps to some extent. You do remember that I wrote this book before the latest crisis. Ho scritto il libro prima della recente crisi, e quello che si può notare osservando il comportamento degli occidentali è che il libero mercato e la globalizzazione non sono viste solo come tecniche per arrivare a una società e una cultura migliori, ma sono visti come una religione. Quello che voglio dire è che libero mercato e globalizzazione hanno sempre ragione, non importa cosa le persone dicano contro di loro. Accettarli è di fatto l'indizio più chiaro di appartenere al mondo civilizzato. Chi non vuole partecipare al libero mercato viene considerato uno diverso da noi. In un certo senso non viene neanche considerato un essere umano. Viene giudicato come uno irrazionale, che ha qualcosa che non va. Penso che questa recente crisi abbia evidenziato sia le debolezze di questo pensiero che i suoi risvolti religiosi. La reazione più diffusa tra le persone è stata quella di cercare di ignorare il fatto che questo sistema non funziona più, cercare di dimostrare che Dio, il sistema, non sia morto veramente, che possa rialzarsi dalle ceneri e resuscitare il terzo giorno, e che la vecchia teoria di Milton Friedman di un mercato che si autoregola è ancora valida, nonostante tutto ciò che è accaduto nei mesi scorsi provi il contrario. Per una persona che ha fede, anche se tutto il resto va nella direzione contraria, è difficile negare quello in cui crede. Penso che nel mondo ci sono molte persone che credono nell'economia e quindi per loro abbandonare la religione del libero mercato è difficile come, per esempio, è stato difficile per le generazioni precedenti abbandonare l'ebraismo custam. Ok, I thank you very much, Professor Kleinberg. You're very welcome. Ma come vi dicevo, su questo tema ci sono altri libri. Il Mulino, per esempio, ha dato vita a un'intera collana. Sono 7 volumi dedicati ciascuno a un vizio capitale, una collana curata da Carlo Galli, e i titoli che sono usciti sono Superbia, la passione dell'essere di Laura Bazzicalupo, Gola, la passione dell'ingordigia di Francesca Rigotti, Accidia, la passione dell'indifferenza di Sergio Benvenuto. Sono volumi tutti piuttosto brevi, fra le 120 e le 160 pagine, costano ciascuno 12 euro, sono, ripeto, pubblicati dal Mulino, e naturalmente seguiranno gli altri vizi che vi ricordo, perché non cadiate in tentazione in questi giorni: l'invidia, la lussuria, l'avarizia e l'ira. Sentiamo da questi libri come vengono definiti dagli autori appunto questi vizi. Partiamo col peggiore di tutti, la superbia. La superbia, radice e regina di tutti i peccati. Così la definiscono tanto Agostino che Tommaso. Questo doppio appellativo ci dice che è un peccato diverso dagli altri, che occupa cioè nella gerarchia dei peccati capitali un posto speciale. È la radice. Dalla linfa del peccato di superbia ricevono nutrimento gli altri peccati, che sono tutti forme specifiche di superbia. E adesso un altro vizio dal quale, per la verità, tutti cerchiamo di sfuggire infliggendoci delle penitenze quasi quotidiane: la gola. Secondo la classificazione medievale, la gola è un vizio di società che riveste un peso particolare per chi vive in comunità e quindi, dal momento che tutto il sistema dei vizi si organizza e si struttura originariamente intorno alla vita del monastero, per i monaci cenobiti. Gli altri vizi che colpiscono tale categoria di religiosi sono ira e lussuria. Vizi della vita solitaria, propri di eremiti e anacoreti, sono invece i rimanenti accidia, superbia, avarizia, invidia. E infine il vizio forse più misterioso, l'accidia. Un pericolo micidiale pende sul capo del monaco, solo nel deserto di pietra in Egitto, dove egli passa la vita cercando di rassomigliare il più possibile a Cristo. A mezzogiorno, quando il sole è al culmine nel cielo e il calore si fa opprimente. Il demone meridiano, nemico frequente e spietato, si impadronisce dell'anima del solitario. Monacos, in greco, significa solitario e celibe. Single, diremmo oggi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso vi riporto immediatamente all'attualità con queste righe. Negli ultimi tempi ci ritroviamo a soffrire di una forma particolarmente virulenta di pessimismo economico. È opinione comune, o quasi, che l'enorme progresso economico che ha segnato l'Ottocento sia finito per sempre. Che il rapido miglioramento del tenore di vita abbia imboccato, almeno in Inghilterra, una parabola discendente e che per il prossimo decennio ci si debba aspettare non un incremento, ma un declino della prosperità. Avete pensato che queste righe siano state scritte in queste settimane? Invece no, risalgono al 1931 e furono scritte dal più grande economista, almeno così è considerato da molti, del Novecento, cioè John Maynard Keynes. Keynes aveva, per la verità, fatto una conferenza su questo tema nel 1928 e pubblicò queste pagine nel 1931. Ci vengono riproposte da Adelphi. Il titolo è Possibilità economiche per i nostri nipoti. È un libricino di 52 pagine, costa 5,50 euro, completato da una postfazione di Guido Rossi, quindi uno studioso italiano contemporaneo, che adotta lo stesso titolo ma aggiunge un punto interrogativo. Possibilità economiche per i nostri nipoti? Keynes, dunque, nel pieno della Grande Depressione seguita al crollo del 1929, supera o cerca di superare il pessimismo sottolineando che di là a 100 anni l'economia si sarebbe assestata e che il benessere sarebbe stato un dato acquisito. Al punto, aggiunge il grande economista, da mettere in discussione la stessa funzione della scienza economica e la stessa esistenza del problema economico. Saremmo entrati in un periodo di benessere talmente diffuso, in una sorta di regno dell'abbondanza, al punto da doverci interrogare su come occupare le nostre giornate, che sarebbero state tanto più piene quanto più ricchi di interessi ciascuno di noi fosse stato capace di mostrarsi. Sentiamo Keynes, dunque, che sembra in queste righe che adesso vi propongo riprendere proprio alcune illusioni che abbiamo vissuto negli anni passati, ma anche sembra offrire un eco alle riflessioni sull'ingordigia e l'avarizia di cui abbiamo appena parlato. E dovremo fare di virtù necessità, mettere il più possibile in comune il lavoro superstite. Turni di 3 ore o settimane di 15 potranno procrastinare per un po' il problema. 3 ore al giorno dovrebbero senz'altro bastare per placare l'Adamo. Dobbiamo aspettarci grandi cambiamenti anche in altre sfere. Nel momento in cui l'accumulazione di ricchezza cesserà di avere l'importanza sociale che le attribuiamo oggi, i nostri codici morali non saranno più gli stessi. Saremo finalmente in grado di buttare alle ortiche molti pseudo principi che ci affliggono da 200 anni e che ci hanno spinto a far passare alcune fra le più ripugnanti qualità umane per virtù eccelse. Potremo finalmente permetterci di assegnare al desiderio di denaro il suo giusto valore. L'amore per il denaro, per il possesso del denaro, da non confondersi con l'amore per il denaro che serve a vivere meglio, a gustare la vita, sarà agli occhi di tutti un'attitudine morbosa e repellente, una di quelle inclinazioni a metà criminali e a metà patologiche da affidare con un brivido agli specialisti di malattie mentali. E dunque Keynes conclude che diventeremo liberi, scrive, di recuperare alcuni principi religiosi e valori più solidi e tornare a sostenere che l'avarizia è un vizio, l'usura un comportamento reprensibile e l'avidità ripugna. Come sentite, parole di straordinaria attualità, come sottolinea poi Guido Rossi nella sua postfazione, nella quale lo studioso osserva che il prodotto del denaro, cioè l'interesse, dovrebbe essere commisurato alla produttività del lavoro, anziché a un mercato retto dall'azzardo e dall'azzardo oggi distrutto. Conferma come parole scritte più di 70 anni fa possano tornare di straordinaria attualità. E restiamo appunto nell'attualità, ma di un altro genere, quella politica. Siamo sempre nel nostro paese e vi propongo un genere particolare che ha a che fare con la fanta politica, con questo libro, Il Colle Fatale, sotto titolo Un giallo politico, è pubblicato da Longanesi, 166 pagine, 13 euro, che l'autore nessuno lo sa. L'autore è un anonimo romano e ci presenta una storia ambientata nel 2011, quindi non troppo lontano, con personaggi di fantasia ma che sono tutti facilmente riconoscibili. e che danno vita a una storia che trova la sua premessa proprio nelle vicende politiche di questi giorni. Infatti l'equilibrio politico è ormai consolidato nel nostro paese, si è fatto il federalismo fiscale che ha purtroppo deluso il partito Libero Nord, c'è la Federazione Democratica, ci sono i capo delle liti e c'è soprattutto un uomo politico di acuminata intelligenza politica con i baffetti e che ama sfoggiare delle scarpe costose, il quale muore piuttosto misteriosamente, dando appunto il là a una storia che ha poi come sbocco finale la lotta per il Quirinale. Quindi una storia che si inserisce in una tradizione presente nella nostra storia letteraria recente. Qualcuno ricorderà il successo che ebbe una trentina d'anni fa un libro intitolato Berlinguer e il professore, di cui poi si scoprì autore dopo molti mesi un grande giornalista dell'epoca, cioè Gianfranco Piazzesi. Vedremo se questo anonimo romano si svelerà nei prossimi mesi, per adesso ci viene precisato che l'autore non è il senatore a vita Giulio Andreotti. Un'Italia dei misteri, ma questo in senso non figurato, un'Italia cioè veramente nascosta, è quella che viene raccontata nel libro di Mario Tozzi, Italia segreta, viaggio nel sottosuolo da Torino a Palermo, è pubblicato da Rizzoli, 222 pagine, 18 euro. L'autore è un geologo oltre che scrittore e documentarista che ci presenta qui un'Italia veramente, il caso di dire, profonda, cioè un'Italia che bisogna scavare per conoscere, ci porta infatti a vedere, a conoscere le ricchezze nascoste del sottosuolo italiano, un sottosuolo che racchiude non solo gallerie, fognature, tubature, ma una storia che spesso affonda le radici in leggende millenarie. Roma, Napoli, Torino, Milano, Bologna, ma anche tanti altri centri minori possono essere così rivissuti e rivisitati da una prospettiva inedita che ci aiuta a ricordare o a riscoprire le origini delle nostre città. Un altro itinerario curioso, e questo all'aria aperta, è quello al quale ci invita uno scrittore che ha avuto una storia particolare, è nato infatti come operaio, poi ha avuto un lungo tirocinio ed si è trasformato appunto in scrittore anche di successo, è Antonio Pennacchi, di cui viene pubblicato Fascio e Martello, viaggio per le città del Duce, pubblicato dalla Terza, 342 pagine, 18 euro. Questa è un'edizione aggiornata, completamente rivista, di una precedente edizione di questo percorso. Non è un saggio di architettura questo che vi viene proposto, ma appunto un viaggio vero e proprio di uno scrittore che non a caso è nato a Latina, una delle 147 città, le ha censite appunto Pennacchi, fondate dal Duce e le quali si trovano non soltanto nella pianura pontina come siamo spesso abituati a pensare, ma diffuse in quasi tutta l'Italia. Di queste città il libro di Pennacchi è la guida, una guida scritta in modo davvero divertente che ci fa riscoprire e che ci descrive dei luoghi che sono veramente spesso segreti, i loro architetti, le loro storie, e il libro testimonia anche purtroppo dei casi di devastazione che sono accaduti successivamente, alcuni dei quali, dice Pennacchi, meriterebbero la corte marziale. Pennacchi non è certo un uomo di destra, si definisce un ex maoista, ma visita con molto interesse e con molta partecipazione questa esperienza urbanistica e architettonica che è stata veramente molto importante e che fu molto studiata non soltanto in Italia. E anzi questo viaggio permette a Pennacchi di fare anche alcune osservazioni abbastanza atipiche e controcorrente sul fascismo, che conclude cercò di disegnare una terza via tra socialdemocrazia e bolscevismo, ma muovendosi in una ottica anticapitalista e antiborghese. E a questo punto il confettino. Una lettura divertente anche per certe mamme, devo dire, è il libro Verusca non vuole fare la modella di Francesca Capelli con le illustrazioni di Cristiana Cerretti, pubblicato da San Paolo, 30 pagine, 7,50 euro. Una favola molto attuale su una bambina che preferisce mangiare un biscotto in più e rinunciare alla carriera di magrissima modella. E con questo auguro buon pranzo a tutti, grandi e piccini. Ringrazio Daniele Casagrande e Vittoria Mussini in redazione, Pietro Laccorte in regia, passo la linea a respiro di Laura Bettini, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it, vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.